addosso per dire che ci sei. Quel basco nero nel sole rosso che non tramonta mai, è sempre lo stesso giù fino all'osso. Chissà.